giornalista di merda, perché tu stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare, perché tu hai una capacità di fare giornalismo pari a zero, ok? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, può fare anche Peppe Fetish, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui. Caro Parenzo, finalmente abbiamo una linea editoriale. Eccoci. Abbiamo una linea editoriale. Sì. E l'ha data il signor Squinzi, il presidente di Confindustria. Finalmente, finalmente sappiamo cosa dire sull'immigrazione. Posso dissentire io anche se. Tu puoi dissentire. Posso dissentire. Beh, in fai modo come fai sommesso, fai in come modo credi, sai le conseguenze quelle possono essere. Diciamo che telese docet, sono telese docet, no, telese docet. Dissento in silenzio, ecco. Cioè, non dici che è un cretino Squinzi? Ma non ci penso neanche per niente. Allora, Squinzi cosa ha detto? Che l'immigrazione non risolve i problemi, mentre tutti dicono che risolverà addirittura il problema delle nostre pensioni. Sì, tu sei contento oggi? No, oggi non sono contento. In linea, non sono in linea, non sono mai in linea. Io non voglio essere, sono in difficoltà perché mi sento di essere in linea, però non devo essere in linea. Lo so, non devo essere in linea. Comunque, signor Squinzi, l'immigrazione non risolve i problemi, lavora gli italiani. Diciamo che posso dire anch'io che sembra di sentire il signor Salvini, sembra di sentire la signora Meloni, questo lo possiamo dire. No, adesso. No, come no? Io lo dico invece: Squinzi come Salvini, Squinzi come Meloni. Chiaro? È così. Purtroppo non è l'immigrazione che può risolvere i nostri problemi, cioè, noi abbiamo bisogno di ridare il lavoro innanzitutto agli italiani, diciamo che sarà una visione un po' egoistica, però cominciamo a ridare un futuro ai nostri giovani e una velocità al paese. Ecco. Prima gli italiani, beh, insomma, come una Meloni qualsiasi. Sì, sulla velocità al paese ha perfettamente ragione in questa seconda parte. Secondo me no. Ribollo. C'è una. No, ha ragione. Aspetta. Al paese. Ho trovato qui il solito portafoglio del Barisoni. Ogni pozza si scorda il portafoglio, signor Barisoni. Il portafoglio del cellulare, però. Allora, merita una riflessione questa. No. Allora vi elenco le cose che sono dentro il portafoglio del vice direttore di questa radio. Sì, nonché in c'è? Teoria il nostro capo, ma insomma. Assoluto. A supremo. Ma, insomma, in teoria, sempre molto in teoria. Allora, portafoglio: 1500 euro in contanti. No. Ok, 1500 ma non si può per legge, però. Secondo me tra l'altro non c'è la soglia dei 1000. È anche esagerato, che ci fai con 1500 contanti? Ma perché devi dire così? Così 1500 contanti. Poi cose per rimborsi, no? Scontrini. Vabbè, per rimborsi vari. Normale. Carte di credito, credo 4 carte di credito. No, è possibile. 4 carte di credito, tra cui un'American Express Black, la classica Black. Questo non credo. No. Questa è buona. La Black è buona. La Black è buonissima. La Black segnala il grano, amico mio. Due tessere, una del Fashion, locale di Milano. Bello locale. Diciamo. Una dell'Olimpo a Torino. Tessera dell'IKEA. Tessera dell'S lunga e tessera anche della Coop per par condicio, naturalmente, siamo Barisoni. S lunga e Coop. Basta, ho finito. Barisoni, vieni a riprendere la cosa. Dai, vieni a riprendere. L'unica a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Ha ragione, sto cazzo. Siamo qui, 800 24 00 24. Allora Marino, io non ce la faccio con Marino, non ce la faccio. Intanto ha attaccato il prefetto di Roma, non quello attuale, quello precedente, perché lui dice. Ma io dico una cosa, ma Marino adesso va sempre ha deciso. Ma se rimanesse un po' a governare Roma anziché andare sempre in televisione tutti i giorni, che è appena tornato dal viaggio. Ha deciso evidentemente una nuova strategia di comunicazione, cioè quello di andare in televisione e dire la sua. Ha detto che quando è arrivato, lui ha detto che c'era la mafia a Roma, a parte che non basta dire che c'è la mafia a Roma, bisogna pure fare qualcosa di concreto, ma il prefetto di allora, che credo fosse Pecoraro, signor Pecoraro, diceva che non, signor Pecoraro, insomma, è attaccato da Marino, sentiamo. In una città dove io dico da 40 giorni dopo la mia elezione che la mafia esiste. E allora se la mafia esiste e a quel tempo, quando io lo dicevo, il prefetto di allora diceva che non esisteva, io credo che le parole hanno un peso e il peso significa che noi dobbiamo avere una tutte di... Allora poi torna su Vespa, mi vergogno di avere portato nei salotti Casa Monica, che palle, basta con sta storia. Uno si dovrebbe vergognare per il fatto che Roma non funziona, per il fatto che Roma è disastrata, per il fatto che Roma è infiltrata, mafia sì, capitale, certo. Non perché Vespa, facendo il suo mestiere, si può discutere naturalmente, basta con questa storia, Marino, di dare le colpe a Vespa della vergogna di Roma, dai! Mi vergogno che la televisione di Stato abbia portato come folklore, come dice lei, nei nostri salotti, perché noi la televisione di Stato la paghiamo, questo tipo di famiglia, questa non è Roma. Tanto Floris ha detto, beh, io l'avrei intervistato in maniera un po' diversa in Casa Monica. Certo, beh, certo, ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, no, ma non è vero. Ma sì, ha difeso il fatto di intervistare. Ecco, no, vabbè, ma chi te l'ha detto che l'avrebbe intervistato in maniera diversa? Ma no, dove sta scritto? In modo ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma che appartiene allo stile diverso di trasmissione, no? No, quando mai? E come no? Appartiene al vabbè, Marino dice nessun rischio mafia al Giubileo. Sentite, sentite, ma perché, secondo Marino, perché? Bisogna sbrigarsi a fare le cose del Giubileo perché l'avete saputo all'ultimo, in una condizione così. Quanto c'è pericolo di un'infiltrazione mafiosa? Assolutamente nessuno, perché noi abbiamo organizzato un sistema in modo che tutto sia controllato da noi. Innanzitutto abbiamo un assessore alla legalità che è l'assessore che ha arrestato Brusca. Brusca, per chi non lo ricorda. Sì, però non è che la sicurezza sia il fatto che c'è un assessore che ha arrestato Brusca. Non c'entra assolutamente nulla con la questione delle infiltrazioni, vabbè. I grillini insistono, il PD è più pericoloso del malaffare, eh? Lo dice Di Battista, già Giarrusso ieri da noi aveva detto praticamente che il PD è uguale alla camorra, uguale alla mafia, più o meno, E oggi paradossalmente il Partito Democratico, che lavora moltissimo di ipocrisia, è maggiormente pericoloso dello stesso malaffare, che comunque ha abbracciato fette di Partito Democratico. Questo è forte, questo lo dissi 2 anni fa. Grande ritorno alla zanzara, mentre grande casino in Europa, grande ritorno e grande casino in Europa con l'Ungheria che ne fa di tutti i colori, di un personaggio che vi presentiamo così. Alte protezioni, ruffianeria di Stato, leccaculismo diffuso, no, bigottismo universale, solidali, sono moderati, moderati un cazzo! Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive, che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella. Che tempi, Mario, che tempi, che tempi. Tempi d'oro, ma torneranno perché... Perché torneranno? Perché torneranno? Tira un ventaccio qui che arriva anche nei palazzi di Bruxelles e di Strasburgo. Come torneranno? Come torneranno? Bruxelles. Torneranno perché c'è una reazione spontanea. Non... A che cosa? Ormai scusa? Non sono più solo le opinioni pubbliche che sono contro queste politiche demagogiche, sono gli stati. Gli stati. Mezza Europa. Allora, ti voglio chiedere una cosa, Mario. Le frontiere, e ce l'hanno in quel posto, questi qui che ci hanno sempre detto che del Partito Popolare Europeo e dei socialisti che i loro paesi erano tutti a favore dell'apertura delle frontiere, sono tutti incazzati come bisce. Scusami, perché... Marione, ma l'Ungheria in questo momento che cos'è per te? Orban, che cos'è per te? Orban è sicuramente un grande patriota. Mi stupisce persino che sia nel PPE. Diciamo che il PPE lo butteranno fuori, oggi questo PPE Partito Popolare certo, Europeo, sì. Oggi se ci fosse un grande statista come e grande patriota come De Gasperi, sarebbe orgoglioso di Orban. Orban è un vero democratico. È un vero democratico. Perché un democratico è quando è megafono della volontà popolare. Senti una cosa, scusa, ma Marione, ma hai un punto di riferimento per te? Perché non prendi direttamente la carta d'identità o un passaporto ungherese? Sarebbe da prendere. Ma devo dire che prima o poi lo dovremo fare, perché sarà sarà un punto di riferimento, lo è già adesso, ma dico nel momento in cui difendere frontiere erge giustamente motivatamente filo, i muri ecco. contro l'invasione, sì. diventa luogo sacro, diventa il centro, il cuore dell'Europa. Scusa, ma te... rinasce il sacro romano impero. Beh, adesso e guarda caso da questa Mitteleuropa di cui noi abbiamo un ricordo, noi che diciamo abbiamo sì. del passato storico in Michele. Cui l'Europa tradizionale sì. voglio dire dettava legge al mondo sì. dal punto di vista del diritto non era un però periodo, scusami diciamo. Scusami Mario, ma il filo spinato è beh, una cosa che piace a te, il filo spinato è ma bellissimo, il filo spinato è un segno di civiltà, può essere dire se è per evitare che diciamo dei balordi sì. Invadano profughi come balordi profughi no, Borghezio se sono profughi veri vabbè, se è per evitare Salvini, che dei balordi e noi profughi tatuati dire, messi sui vagoni eccetera, ma scherziamo ma qui c'è un profugo e 99 rompicoglioni, questa è la verità. le ha selezionati quindi, lei tutti scusa Mario, il filo spinato i bambini, quel giornalista ungherese che addirittura tirato un calcio e fatto cadere, dai, ma è un paese civile. Parlava una signora che si occupa, dalla loro parte, che si occupa di assistenza, e gli hanno chiesto, una trasmissione importante, le hanno chiesto, ma da dove arrivano quelli che regolano? Dice, arrivano da e ha elencato una serie di paesi africani in cui assolutamente non c'è la guerra. Scusami Mario, ma il filo spinato per te che cos'è? Un simbolo è fondamentale, come direi quasi un simbolo di civiltà. Diciamo ma la verità. Io dico che se è per difendere parliamo dal diritto privato, se è per difendere la propria proprietà da ladri e rompicoglioni è certamente uno strumento prezioso di legalità. Uno strumento di legalità, ma direi anche un segno di civiltà, si potrebbe dire. Un segno di civiltà è soprattutto il politico, come questi responsabili di un numero sempre maggiore di stati che dicono non ne vogliamo neanche mezzo perché non siamo sicuri che siano proprio e soprattutto dicono una cosa i buonisti di merda che dicono? Dicono guardate ecco. Che con la vostra politica di porte aperte a tutti quelli che voi dite che sono profughi e che non sappiamo se sono tutti profughi, voi lanciate un messaggio ai disgraziati di tutto il mondo venire in Europa che ci sono le porte aperte. Fermo là, e fermo questo lì. È criminale la politica dell'Unione Europea che vuole addirittura imporre delle sanzioni ai paesi che ergono giustamente come fa Orban, muri. Un grande patriota europeo, perché dobbiamo dirlo con chiarezza. Dillo non con è chiarezza. Una di queste mezze seghe della politica italiana che appena parla uno dal pulpito no per avere 4 voti si sdrusciano sulla questione degli immigrati eccetera eccetera, non sanno più come prosternarsi di fronte al diktat di questo buonismo del cazzo con cui vogliono vabbè, governare l'Europa. Ma l'Europa è quella che ha sconfitto i turchi, che se fosse dignitosa quando arriva uno scafista gli spara in testa. Fermo lì. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Sai cosa mi fa impazzire del traffico a me, Parenzo? Mi fa impazzire una cosa. C'è traffico, intasamenti intorno ai maggiori centri urbani. Se uno sta in macchina alle 18.50 e sente che c'è intasamento intorno ai maggiori centri urbani, spacca la radio, perché dice, amico mio, io sono qui in fila, sto ascoltando la Zanzara, mi sto facendo 4 risate, sto pensando, mi sto arrabbiando, eccetera, eccetera, e tu mi dici che ci sono intasamenti intorno ai maggiori centri urbani, ma io spacco la radio. Spacco la radio, amico mio. Divento pazzo. O mi dai una notizia precisa, oppure non mi dici intasamente. Però è un servizio utile, dai, che ti dicono quale strada evitare. Divento pazzo per questa cosa qua. Intasamenti intorno ai maggiori centri urbani. Ma non ha tempo l'amico quello che fa impazzire invece è il meteo. A me ti giuro il meteo. Il meteo nel weekend. Ma perché me lo guardo io se uno mi dice guarda sarà inverno, a dicembre. Fare? Dice piove. Che dobbiamo e dice, che dobbiamo è dicembre. Amico mio, a novembre piove, è normale che piova a novembre. Perché mi devi dire che piove se lo so che d'inverno deve piovere no, ed estate che deve dai. Fare caldo. Ma lo vogliamo fare questo Orban capo dell'Europa, Mario? Ma per carità. Ma Orban lo è già diventato moralmente. Oggi Orban capo morale figura, dell'Europa. Io devo dire, io sono sempre stato un ammiratore della, di Le Pen e delle, adesso di Marine Le Pen, che oggi ha tenuto un altro vibrante discorso però, posizioni patriottiche eccetera, devo però dire Orban... esaltante, e domani ci faremo sentire, perché, vabbè, però Orban t'ho chiesto, dai, sì, Orban ormai voglio dire ha superato se stesso, è un punto di riferimento, un uomo coraggioso, finalmente in Europa si erge Orban e la Boldrini, per esempio, che differenza abbiate pazienza, mi proponete un paragone improponibile. Perché? Perché Orban è un gigante, la signora Boldrini non la qualifico, io ho avuto in precedenza per la Kienger, l'ho definita una casalinga, ma devo dire che la, persino la Kienger appare gigantesca al confronto di questa nullità assoluta che il nostro paese, a cui il nostro paese è riuscito dice a dare che gli immigrati la servono. Terza carica dello dice Stato che gli immigrati... una cosa incredibile che parla soltanto di ovvietà, che non ci dice quanto prendeva quando era alta funzionaria dell'ONU. Però scusami Mario, dice che gli immigrati servono, cioè la Boldrini, certo, che bisogna formarli. Ma queste cose qui le può raccontare i bambini dell'asilo, che voglio dire che non sono ancora al corrente. Cioè tra Orban e la Boldrini, tu vabbè, manco a dirlo naturalmente. Ma no. il problema è questo, Orban è un gigante politico, la Boldrini La traccia nella storia dell'Europa della Boldrini non si ricorderà più nessuno, salvo i fortunati burocrati del Parlamento, della Camera dei Deputati, che lei, dei cui stipendi lei è energico difensore. Parenzo, sai bene che adesso praticamente si può dire orango a chiunque. Purtroppo perché la signora Kienge, anzi Calderoli, andrà a giudizio per diffamazione per aver detto dato della orango alla Kienge. Però ma in non realtà, per incitamento allo, ma non per io razzismo, sono contento di questa cosa. Immaginavo, per sono forza. Contento perché secondo me il processo era una follia totale. Però uno può dire tranquillamente orango la Kienge e non c'è nessun problema praticamente. Basta pensare a quelle che stanno dicendo adesso a tutte le parti al buon Salvini. Vabbè, adesso non è la stessa... il fatto che ha il coraggio di parlare chiaro su perché li dicono bestia. Perché li dicono bestia. Ma che c'è? Perché li dicono bestia. Ma orango è un insulto razzista, però la differenza è questa. Salvini non querela. Senti, ma i Casamonica per te chi sono per te i Casamonica? Beh, i Casamonica sono l'emblema di questa Roma. Ma chi sono i Casamonica secondo te? Tu hai paura dei Casamonica? No, io non ho paura perché ho la scorta dei carabinieri e quindi posso girare, ho potuto girare in belle, voglio dire. Cioè, se tu vai via da casa tua, non hai paura che. No, io ho girato nel loro quartiere alla Romanina. Dove ho potuto solo con la scorta che le loro ville erano protette dalle sentinelle noi pedinati da un Mercedes nero della loro cerchia. Beh, che ne sai? E tranquillamente perché nella macchina in cui stavo io c'erano due carabinieri però ho raccolto Ci sentiamo un'altra volta, fermi tutti, giornale radio. Detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Ciao Parenzo, vi voglio bene, però volevo protestare con la proprietà. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Basta con queste stronzate del traffico, della forza, non frega niente a nessuno. Allora, vi giuro che se sento un'altra volta ci sono intasamenti intorno ai maggiori centri urbani, spacco qualcosa. Vi giuro che spacco qualcosa in diretta con la webcam che potete vedere. Se qualcuno mi ripete la prossima volta intasamenti intorno ai maggiori centri urbani, spacco qualcosa. Adesso vi faccio ascoltare una voce, quella di Patrizia Ravasi, per carità, anche lei è una madre, è la madre di quell'italo austriaco Bescher, là, quello che uno dei due dell'acido, quelli che hanno sfigurato, quasi è virato uno, eccetera, eccetera, eccetera, tutto quello che sapete. la quale dice che gli investigatori hanno lavorato malissimo, che suo figlio è stato sbattuto come un mostro in prima pagina. A me, di fronte a queste cose, prudono un po' le mani. Per carità, è la madre. Ovviamente la strategia difensiva è quella di addossare tutte le responsabilità alla signora Levato, e il contrario, naturalmente. Però il silenzio, avete sfigurato, suo figlio ha sfigurato delle persone. Partiamo dal presupposto che qualcuno l'ha sfigurato. Sfigurate, no? Sfigurate. Oggi uno è andato in aula, ha detto: io non mi devo vergognare di nulla, faccio vedere il mio volto. Mamma. Poi si è anche un po' coperto. Faccio vedere il mio volto perché tutti devono sapere la verità. E non sono io che mi devo vergognare. Ha fatto una prova di grandissima dignità, questo Savi, che tra l'altro è stato sfigurato per errore. Dovevano colpire un altro, un fotografo, che ha avuto una relazione per questa follia di colpire tutti gli ex di Martina Levato. Allora, la signora Patrizia Ravasi, madre, ripeto, del signore, il riccioletto, quello che vedete dietro le sbarre, dice: gli investigatori hanno lavorato malissimo. Tutto l'impianto accusatorio è unicamente finalizzato a coprire una gravissima negligenza investigativa, perché gli investigatori hanno lavorato malissimo. Loro non hanno indagato, loro hanno trovato un ragazzo che hanno fermato e immediatamente hanno preso e l'hanno messo come un mostro in prima pagina, senza indagare. Martina Levato aveva detto: lui non c'entra niente. Senza indagare. Poi magari si scoprirà tra qualche anno che le indagini sono state fatte malissimo, ma signora... Ma hai detto bene tu, cuore di madre, dai, cuore sì, di madre. Sì, per carità, madre, però non è che bisogna sempre giustificare le madri. No, anche, no, appunto, non certo, bisogna certo. sempre giustificare le madri. Non uno, di fronte a persone sfigurate per tutta la vita, sfigurate per tutta la vita, e non bastano i soldi, perché gli hanno dato anche dei soldi, tanti soldi alle famiglie, ma chi se ne frega? Sfigurate per tutta la vita, uno no. Si ritira in silenzio, poi c'è la strategia difensiva, va benissimo, ma uno zitto, muto. E invece no. Allora, un dirigente, rappresentante, esponente della Lega Nord in Lombardia, caro Parenzo, un tale Romeo. Praticamente... Romeo non è quello Romeo di Shakespeare, perché sei tu Romeo? No, è un altro Romeo. La regione Lombardia penalizzerà gli albergatori attraverso, credo, addirittura l'ipotesi del ritiro delle licenze che ospitano i profughi e gli immigrati. Cioè, quindi sono contro gli imprenditori? Romeo. Cioè, sono contro gli imprenditori? No, lo sai qual è la tesi? La tesi è che chi ospita immigrati distorce un po' anche la concorrenza, perché guadagna con i soldi degli italiani, cioè con le nostre tasse, non fa bene il suo lavoro, eccetera eccetera. Io diciamo che non sono d'accordo con questa tesi qua. Comunque sentiamo che proposta c'ha questo tizio qua, signor Romeo. Abbiamo raggiunto un accordo in maggioranza e quindi gli albergatori che decidono di ospitare i presunti profughi saranno penalizzati. Come? Saranno esclusi completamente dai fondi e dai contributi di Regione Lombardia. Altre bitonciate arrivano. Che figura. Dopo la questione del kebab a Padova, cioè la proibizione, la chiusura per tutto il pomeriggio e per tutta la sera ad un kebabaro, perché davanti c'era stata una rissa e si assembravano, diciamo così, si riunivano dei signori fuori e da questo. E chi ha fatto il genio? Il genio ha l'altra cosa che ha fatto nuova, dici? Sì, il genio di Bitonci. Il genio ha fatto? Dice che vuole proibire l'ingresso in un parco, perché è vicino ad un campo profughi, non so va cosa bene. C'è là vicino. Vuole impedire l'ingresso alle persone che non si accompagnano con i bambini. Cioè, si può entrare solo se accompagnati con i bambini. Cosa vuol cioè, dire? Se tu sei da solo, sì, se tu andare. Sei in coppia, senza un bambino non puoi entrare. Perché praticamente sai qual è, diciamo, l'obiettivo di questa roba qui? Sai qual è? Lo capisci o no? Ma certo, mi pare evidente quello che ha paura, che i migranti, la gente vada lì, i rom vadano lì. Senti. Io non so se lei ha figli, le manca di 35 euro comunicazione leghista. Dove abita lei sotto casa, non può portare i suoi bambini al parco, perché guardi, nel parco ci sono i clandestini che vanno a bere. I miei bambini li porto al parco e non ho. Pensavo che andassero a fare cose terribili, vanno solo a bere. Pensavo che andassero a fare cose. Sono serena, sono serenissima ad andare al parco. E non è che mi dà un fastidio se qualcuno arriva nel parco e legge un libro. I miei figli giocano tranquillamente. Le do questa notizia, Bitonci. Siamo qui 800 24 00 24. Dove andiamo? Pasquale, provincia di Savona, vai. Pasquale. Ciao Cruciani. Dimmi. Ascoltami, sono mesi che ti ascolto, che sono gli arresti domiciliari senza aver fatto un cazzo, mi fai ridere. No, aspetta, scusi, aspetta, scusi, fermi tutti. Allora, Pasquale, al di là del fatto che mi ascolti da un mese e sono contento di questo. Sono sei mesi, d'accordo. Allora, che succede? Mi fai ridere, mi hai fatto passare questi arresti domiciliari, cioè. Scusi. Soft, diciamo. Aspetta. Capisci cosa voglio dire? Soft, in maniera tranquilla, sì, rilassata. Comunque, volevo dirti questo. Dimmi. Cioè, questi Casamonica ci hanno rotto il cazzo, gli stai facendo la pubblicità della Madonna. Beh, ma è straordinaria la saga dei Casamonica, bellissima, però, stupenda. Ho capito. Beh, sei un bel personaggio, però basta, no? Vabbè, diciamo, ma adesso... Adesso, fra Boldini, poco... Gli si scopa la Boldini, no? Cioè, per dirti... Cioè, come tema preferisci la Boldini amata dai camionisti? Come tema preferisci i camionisti che adorano la Boldrini? Questo è il tema che preferisci, diciamo, rispetto ai Casamonica. No, attenzione. Volevo dirti questo di importante. Cioè, basta, questi Casamonica, basta, gli facciamo una pubblicità. Va bene, ho capito, ma scusa, sono curioso di sapere una cosa, Pasquale. Per quale motivo, caro mio, sei agli arresti domiciliari, tesoro? Sì. Ma no, per non aver per 0,25 microgrammi di eroina che non ho dato mai un cazzo a nessuno. Aspetta, fermo lì, non ho capito. Per 0,25 microgrammi di eroina che ho dato a uno che non gli ho dato mai un cazzo, capito? Beh, amico mio, però. Scusa, tesoro. Con dignità mi sto portando avanti questo problema qua. Sì, ma tesoro, amico mio, non è bello dare a qualcuno 0,25. No, ma io non gli ho dato un cazzo. Ho capito, ma ci sarà il motivo per cui tu sei ai domiciliari? Sei uno spacciatore o no? Sei uno spacciatore o no? No, io non sono uno spacciatore. No. E perché sei là? Scusa. Assolutamente, era lui lo spacciatore, non io. E tu che sei? Consumatore? Scusami? Sei un consumatore di eroina? Io? No. Scusa, ma scusi, sei in galera, domiciliari per sbaglio? No, io sono a casa, gli arresti domiciliari. Per quale motivo? Ecco, per avere ceduto una dose di eroina, 0,25 mg di eroina. Sì. Non ho fatto un cazzo in questa storia qua. No. Hai capito? Pasquale, non è che io, per carità, non conosco le cose, per cui non lo posso dire. Però, com'è possibile? Perché avevi questa bustina di eroina in mano? No, a me non è che capita. Niente. Ma io non avevo niente. E che perché allora ti hanno preso? Perché ti hanno preso? È lui che ha detto che io gli ho dato a lui. In realtà, è lui che ha dato a me, hai capito? Ah, è lui che ha dato a te. Lui che ha dato. E perché ti ha dato? Non sono andati fino in fondo. Ma perché ti ha dato a te questa bustina? Non mi ha dato un cazzo a me. Parliamoci chiaro, non mi ha dato niente a me. Gli ha trovato tutto a lui, capisci cosa voglio dire? E perché ti ha messo in mezzo allora? O perché ti avrebbe messo in mezzo? Faceva salvarsi il culo, hai capito? Ma anche tu hai a che fare con l'ambiente. Aspetta, Cruciale, non è questo qui il problema è questo di Casamonica. Che cazzo ce ne frega a noi? Vabbè, ma questo l'ho capito, vabbè, d'accordo, questa è la tua opinione su Casamonica, però è più interessante sapere una cosa, scusami, caro Pasquale, perché hai a che fare con questo giro di eroina? Appunto. Non ho capito, scusa. Perché hai a che fare con questo giro di eroina tu, amico mio? No, io non avevo un giro di eroina, è questo qui che mi ha chiamato per un assaggio diverso. In realtà mi hanno insultato a me, capito? Per un assaggio diverso, non ho capito. Assaggio di che? Volevo farmi assaggiare delle cose. Che ti voleva fare? Che ti voleva fare? Mi hanno messo nel mezzo. Cazzo, Cruciani, ma tu c'hai una filosofia diversa del pensiero delle persone. Cioè, non sai quelle persone che girano in mezzo alla strada, che vogliono inculati in tutti i modi per avere un riscontro, quei personaggi. No, hai capito? Però, scusami, amico mio, Pasquale, io sono anche comprensivo, aperto, tutte le cose. Però vorrei capire. Questo dice, ti voleva far assaggiare qualcosa. Cosa ti voleva far assaggiare? Esatto. Non credo le paste della nonna, non credo il dolce della nonna. Ma figurati, no? Figurati. Che cos'era? Cocaina, eroina, cosa ti voleva far assaggiare? Ma te l'ho detto prima, era eroina, punto. Oh, eroina. Allora, voglio dire, il risultato è questo. Tu che cazzo c'hai a che fare con l'eroina? Che sei? Consumatore, spacciatore, intermediario? Che cos'è? Io sono consumatore. Ti fai di eroina, ti fai di eroina. Oh, bellina. Per carità. Problema? Fiore, comunque. Cioè, quanto ti fai di eroina, scusami? Ma io non mi faccio più niente da tanto tempo. Beh, no, hai amico capito? Mio, ti hanno arrestato da poco, dunque qualcosa ha a che fare con l'eroina, o no? Poi quanti sei mesi è andato? Non scherziamo. E quanto ti sei fatto con l'eroina? Io faccio tutte le settimane le urine, sono pulitissime. E adesso, perché ti hanno messo in mezzo adesso, amico mio? No, mi ha messo in mezzo già 6 anni fa, è una storia di 6 anni fa. 6 anni capito? Fa, e che stai, hai arresto domiciliare da 6 mesi? Recidivo sarai. Ti dico una cosa, Cruciani, sarebbe troppo... peccato dire le cose che sono successe in questa storia qua, capito? Senti, ma l'eroina, allora, l'eroina com'è secondo te? Dimmi? Com'è l'eroina? L'eroina è la più bella finanziatura del mondo, diciamo, no? Questa è una teoria, è una cosa. Allora, abbiamo detto una cosa, sembra pro droga. Abbiamo detto una cosa pro droga. Io non mi sono mai fatto niente. Però chi ha consumato l'eroina, ovviamente non consumate nulla, non toccate mai niente. Io mai, che porcheria. Però, signor Pasquale, provincia di Savona, che ha detto di essere un consumatore, o di essere stato un consumatore, ha detto una cosa che molti consumatori di eroina dicono: la più bella fidanzata del mondo. Ovviamente, questa cosa qui l'avete sentita, perché qui c'è anche molta realtà in questa trasmissione, ma cancellatela immediatamente, perché ha detto una cosa che porta alla morte. È la più bella fidanzata, è una fidanzata che ti fa credere nella, no, in chissà in che cosa, e poi ti ammazza. Fermi tutti. Brucida. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Esposito, l'assessore alla mobilità e al trasporto del Comune di Roma, Juventino Sfegatato, che cantò qui in una delle prime puntate di questa nuova stagione della Zanzara il coro di quando era anti-Roma, ragazzino, e andava allo stadio Roma merda. In realtà disse una cosa più grave, se vogliamo, Esposito, cioè disse di non conoscere cos'era il 64, di non conoscere nemmeno il numero dei taxi a Roma, Esposito però resiste, cioè non è che dice no, scherzavo, è una trasmissione così, la Zanzara, eccetera, eccetera, quello che no, dicono no, tutti. Ha tenuto la barra. Tiene botta, dice, perché giustamente è convinto. Ha tenuto la barra, che non è Francesca Barra, ha tenuto la barra, nel tenuto senso la barra dritta. Punto, il punto. Non è nemmeno un'altra cosa la barra. No, ha tenuto la barra, la linea dritta, la linea dritta. Sì. È rimasto solo lei a dire queste cose tremende sulla Roma? No, intanto si vuole scusare? Le dicevo a 16 anni, non mi scuso per quello che facevo a 16 anni, onestamente. Trovo abbastanza stucchevole il politico che usa il calcio nascondendo la sua fede solo per ingraziarsi, perché guardi, lo dico e lo ribadisco, l'ipocrisia sul proprio passato, sulla propria fede calcistica, vuol dire che nel presente mediamente sei bugiardo. A parte uno che in macchina mi ha insultato passando un semaforo, ma questo ci sta. Ma Chi mi ha detto quello che l'ha insultata? Mi incuriosisce. Vabbè, io è merda, naturalmente, e poi si vede che, conoscendo la mia storia, ha urlato no tab, ma insomma si mischiano le cose, quindi sono divertenti. Ho un'esperienza a Torino, Cesare Romiti, tifoso della Roma. Sì, è romanissimo, va bene, Romiti. Che è andato per anni, insieme all'avvocato, che era naturalmente il patron della Juventus, a tifare Juve allo stadio, e che si è potuto riprendere la sua giusta, come dire, fede quando ha smesso di essere pagato dall'avvocato e dalla Fiat e tornare allo stadio a tifare Roma. Poveretto. Sai che ha detto una cosa giustissima prima, sì, Esposito? Sì, ha detto: mediamente chi nega alcune cose del proprio passato, cioè chi mente sul proprio passato perché vuole nascondere qualcosa, lo può fare anche oggi, cioè sicuramente lo fa anche oggi. Grande insegnamento. Ha ragione. Grande insegnamento. Su questo hai ragione. Beh, Parenza, a questo punto direi dovrebbe imparare il numero delle licenze dei taxi, quello sì. Ma quello sì, quello è anche le maggiori linee di comunicazione a Roma, degli autobus a Roma, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori. Vai. Senza dubbi né pensamenti. Avanti, camerata Orban, guarda avanti. Non ti serve più la ruspa. Hai messo un bellissimo filo spinato. Il migrante quando arriva lo tocca e si fulmina. Ci vorrebbe anche a Lampedusa un filo spinato che circonda tutta l'isola. Così Salvini quando arriva prendi la ruspa, fai vedere quanto è bella la tua terra. Allora, un ascoltatore salirà alto nel cielo. E in questo momento purtroppo non è l'immigrazione che può risolvere i nostri problemi, cioè, noi abbiamo bisogno di ridare lavoro innanzitutto agli italiani, diciamo che sarà una visione un po' egoistica, però cominciamo a ridare un futuro ai nostri giovani Ci deve essere stato un errore, ci deve essere stato un errore, scusa. Ma che sei pazzo? Ci deve essere stato un errore. Cioè, ma lì, te che ci sono pazzi? Hanno messo la voce di Squinzi all'interno degli ascoltatori di Radio Padania. Ma non è possibile. Che devo fare? Ma è un errore clamoroso. Che devo fare? Ma è un errore pazzesco. Hanno messo, cioè, hanno visto l'elenco delle cose, no? Il meglio, il peggio di Radio Padania, e hanno inserito Squinzi. Perché hanno visto il titolo della cosa, no? Lavoro agli italiani. Sì, certo. L'hanno messo dentro la Padania. Sentiremo dopo la rubrica, va, sentiremo dopo. Caccia oltre il fiume, il potere. Nicolò da Venezia, 800240024. Che dobbiamo fare? Sì, pronto? Dimmi. Pronto? Sì, dimmi. Sì, pronto, ciao. Volevo chiedere a Parenzo una cosa. Come mai non ha ancora dato del razzista, fascista a Squinzi? No, perché alla fine ogni persona che prova a dire sulla tematica dell'immigrazione viene subito tacciato come razzista. Non mi pare che l'editore di questa radio, Squinzi, abbia fatto riferimento al muro di Orban, abbia usato il linguaggio che solitamente usa il militante. Non fare il lecchino. Io ho detto che non sono d'accordo. Io ti ascolto tutti i giorni. Secondo me non ha senso dire che, secondo me, che bisogna dare lavoro prima agli italiani. Si dà lavoro a chi, intanto chi chiede lavoro. Primo. Ma questo è sempre stato. Quindi, il fatto che ci siano tanti italiani senza lavoro, però, come dimostrano, diciamo, posti di lavoro ce ne sono, no? Credo. Cioè, mettiamoci d'accordo. Se ci sono posti di lavoro, umili e bassi, si inizino a fare quelli. Quindi, siano essi italiani o migranti, se c'è bisogno di forza lavoro, fatevi avanti. Questo vabbè, Nicolò, che vuoi dire? Non ho capito. No, volevo dire, chiedere a Parenzo come mai questa volta non ha dato del fascista. Ma qui non c'entra il razzismo. Ha ragione Nicolò. Tu dovresti dare, se uno dice prima gli italiani, come ha detto Squinzi, tu gli dovresti dire una puttanata. Invece non lo dici, no, non sono d'accordo. Cioè, dovresti dire, hai detto una puttanata, caro Squinzi. Ma intanto ognuno usa. Non dire stronzate, perché quando uno dice così una puttanata, tu lo dici spesso, lascia perdere. Diciamo che lui non usa il linguaggio che solitamente usano i leghisti. Ognuno va ripagato con la moneta che utilizza. Un leghista si può dire puttanata, Squinzi si dice hai sbagliato. Hanno un linguaggio nettamente diverso, a meno che tu non sostenga che hanno lo stesso linguaggio. Senti che ipocrisia, hai sentito che ipocrisia? Certo, no, ma lo conosci, lo sento tutti i giorni. No, caro, se io vado a Radio Padania, anzi non ci vado, ma insomma lì. A chiunque, a ogni persona che prova a dire, ma che poi. Nessuno mette in dubbio sull'accoglienza le persone che stanno affogando. Penso che nessuno, perché neanche Salvini. Vabbè, comunque, ragazzi, diciamo la verità: il presidentissimo, illustrissimo, maestrissimo, editorissimo dottor Squinzi ha detto una cosa molto semplice, che verrà tradotta domani da un sacco di giornali in questo modo. No, è già ha detto: sì, è già vabbè, stata il titolo. Allora, la cosa è questa. Prima gli italiani, gli immigrati diciamo servono meno, questa è la sostanza delle cose. Se l'avesse detto da mesi, da un anno che lo dicono Meloni, Salvini, eccetera, è così, questa è la realtà. Claudio da Torino, dai Claudio. Buonasera. Cioè il capo degli industriali ha con una semplice frase in qualche modo dato nobiltà alle posizioni di Salvini, della Meloni, eccetera eccetera. Ha dato rispettabilità. Come no? È così, Claudio da Torino, è così, assolutamente è così, Claudio da Torino. Io non lo dico come è un'osservazione. Claudio, vai. Posso parlare? Buonasera Cucciani. Ho una proposta io per quanto riguarda i profughi. Visto che poi io sono di questa, se vuoi sapere la mia posizione, io te la dico. Dire così prima gli italiani anche per me è una puttanata. Però attenzione, io non è che questa cosa qua mi impedisce di dire che bisogna fermare l'immigrazione clandestina. Se certi lavori però gli italiani non li vogliono fare, benvenuti tutti gli immigrati possibili, immaginabili. È quello che questo dice prima, cioè l'immigrazione. Vai Claudio, questo non significa niente che non si possa adottare una politica durissima contro l'immigrazione clandestina, durissima. Questo non vuol dire nulla. Però dire prima gli italiani non c'entra nulla, per alcuni lavori gli italiani non li vogliono fare. Siamo di fronte all'immigrazione clandestina, siamo di fronte a dei profughi, che è una roba diversa. Claudio, dimmi. Allora, ho una proposta per i profughi, visto che Papa Bergoglio vuole che vengano ospitati nel convento. Sì. Ma secondo lei ce la fanno hanno un metodo, hanno degli strumenti precisi per indottrinare un po' gli immigrati che arrivano. Secondo le, cioè, secondo voi, cioè, abbiamo... Cioè, che vuol dire? Perché dovrebbero indottrinarli? Scusa, a me gli indottrinamenti non mi piacciono, sia islamici che cristiani. Io sono ateo, pure io. Allora? Però, sinceramente, l'Europa è un continente nato sul cattolicesimo. E allora? E noi ci basiamo su quello. Ma ci basiamo su quello, tu ti basi su quello. Io no, tu no, perché sei ateo, ma io non mi baso su quello. Così, Cucciani, sei nato cattolico e poi sei diventato. Ma che vuol dire? Ma non è vero. Ma sì, la tua storia è quella, la nostra. Vabbè, allora a me non me ne frega niente della storia. Ma secondo te ce la fanno i preti a, non so, a che a fare? Convertirli? Ma perché dovrebbero convertirli? Scusami, ma perché non dovrebbero... ci possono provare? Che ci provino? Secondo me non c'è senso. Ha, scusi, non ho capito. Ma che ne so, non lo so. Vabbè, ciao, vabbè. Ciao amico mio. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo, Vincenzo, Roma, vai. Ciao, buonasera Cruciani, scusi. Dimmi, dimmi. Allora, io volevo rilacciarmi al discorso sulle mafie, su Napoli, eccetera, la Bindi, sì, per fare un discorso che prende spunto da una frase di Borsellino che la capisco. Sì, però Vincenzo, andiamo al solo, sì, vai. Sì, sì, velocissimo. Allora, secondo me ci sono diversi gruppi di interesse, che chiamiamo lobby o mafie, che attraverso i governi fanno da collettore nell'azione di estorsione al singolo individuo. Quindi sì, però tasse, ti faccio notare che questa qua non è una trasmissione in cui si può parlare così a livello filosofico dei studi eccetera. Comunque andiamo al sodo, dai, forza, dimmi no, quello che devi dire. Allora, faccio degli esempi. Allora, la Coldiretti ha ottenuto dal governo che non paga l'IRAP, la Confindustria Squinzi non paga le tasse sulle assunzioni, sulle nuove assunzioni. La lobby degli insegnanti ottiene che si assumono 100.000 persone. La Caritas non vuole i poveri, ma poi gestisce l'accoglienza e quindi prende rimborsi dallo Stato, e cioè da noi. Il 5 Stelle vuol dare allora... uno stipendio a tutti. Allora, il problema è riportare l'attenzione sul fatto che vanno tutelate le minoranze. Però scusami, caramente, Vincenzo, io non ho capito niente. Non lo so, cosa vuol dire? Non ho capito niente. Per favore, rivolgiti ad un'altra trasmissione. Grazie. In Ungheria, Parenzo, chi vive in Ungheria? Orban. No, vabbè, Orban lo sappiamo, ma chi vive in Ungheria? Cioè, grandi personaggi italiani che vivono in Ungheria, grandi, chi c'è? Architetti, fammi pensare. No, un secondo. Gli architetti non c'entrano niente. Filosofi, un grande filosofo, sì, intervistato ieri dalla Repubblica, grandissimo filosofo ieri sera. Che dove? L'ho letto. Ma non c'entra niente. Ungherese. Ma no, un grande filosofo ungherese. Il più grande personaggio italiano che vive in Ungheria, chi è? Il più grande italiano. Tremo. No, è un Rocco, signore che lavora Rocco, con uno strumento. Ecco. Come va? Ciao man, come stai? Infatti sono il più alto personaggio di tutti gli italiani che stanno a Budapest, ogni tanto ci incontriamo, sono il più alto. Cioè sei più alto in altezza, sta dicendo. Sicuramente anche in qualche altra cosa, caro Rocco. Ecco qua, ti sento meglio. Senti, come stai innanzitutto? I ristoratori, non lo so, non ho avuto l'occasione di misurarmi. Come stai? Come stai? Nelle trasmissioni invitano Lucio Caraccio. Io sono mai lui beccato, anzi, m'avete beccato al primo giorno della Siffredi Art Academy, il debutto dell'Università del Porno. Il primo giorno, una figata pazzesca. Ma scusa, ma che cos'è questa Università del Porno? Abbiamo già Davanti a me ci sono, 30 persone, tutti a cena, mangiano, è un camp reale, un campus, sì, che ho ricreato nel mio studio, sì, ragazzi, attori, sceneggiatori, sceneggiatrici, registi e il mondo del porno, per dare una delucidata in 2 settimane, giorno per giorno succedono delle cose, ma oggi tutta teoria, si è parlato tantissimo. Ma perché c'è pure la pratica? Cosa fare, cosa non fare, come comportarsi con le donne, sottomissione, dominazione, scene di gruppo, posizioni, sì, come comporre, insomma, una delucidazione. Scusami, domani. Sì, scusami Rocco, la, ma a parte che uno potrebbe dire adesso che è finito il cinema porno, praticamente è finito, tu ti metti a fare il campus del porno, ma quanto pagano questi signori ognuno per partecipare a questo? Allora, in realtà non è mai finito, perché il porno è sempre la cosa più clicchiata, più vista. Questo è vero. Sono quattro personaggi che si fanno 1 milione a settimana, non sono io tra loro, te l'assicuro. Cioè, come? Non ho capito. C'è gente che guadagna 1 milione a settimana? Gente che ha, sì, 1 milione a settimana di guadagno, oltretutto. Ah, i siti, stai dicendo, i siti. Qua, Legal Porn di Praga, un ragazzo ex piratone che piratava tutto, anche i miei film. Grazie a questo, oggi ha acquistato la settimana scorsa il sito porno.com per, sì, $8.800.000 in contanti. Ma tu ti sei fatto sfuggire questo business? Come mai? Quello del... Perché questa è gente molto forte a livello di informatica. Io invece purtroppo mi sono dedicato sempre solo, non purtroppo, era quello che facevo, andavo il sangue giù, stavo il cervello, quindi il pensiero veniva meno. Pensavi ad altre cose, pensavi ad altre cose. Dai. Eri un po' manovalanza. La domanda, e ti rispondo anche alla domanda. Sono mai stato un grande businessman, sono sempre stato, e tu lo sai, molto sincero, è generoso, e qui non paga nessuno, pago io, e paga tra virgolette un po' anche la televisione, perché è per Casa Siffredi, al posto di far vedere di solito film hard, io ho detto ragazzi fatemi fare quello che sogno da una vita, l'università del porno, un scambio. Ah, uno scambio c'è stato, Casa Siffredi, io vi do casa, vi faccio fare Casa Siffredi e voi mi date i soldi per fare l'università del porno. No, che mi date i soldi, all'interno del mio compenso io ho preso quei soldi e ci ho fatto il campo. Vabbè, senti Rocco, non si sente benissimo, mi senti adesso tu? Io ti sento. Allora, tu che vivi in Ungheria, no? Come lo giudichi questo Orban? Sono molto curioso di sapere questa cosa qui, al di là delle attività tue. Che in realtà ci sono molti conflitti qui in Ungheria, perché gli ungheresi di più in più lo capiscono e lo considerano invece un grande. Lo so, ma tu come lo consideri? Anche tu lo consideri un grande? Io personalmente mi metto, nella mia vita ho sempre fatto così, mi metto sempre dalla parte degli altri, nel senso che prima di giudicare mi metto al posto di qualcun altro. Io, papà, i figli, a cui probabilmente gli verrà tagliata la testa da questi infami dell'ISIS, sì, cosa vuoi che faccia? Più che difendere la mia famiglia, portarli fuori e cercare, certo, di salvarmi il culo. Dopo che ho passato o nei battelli con la grande sicurezza quasi finire annegato, oppure quello che succede agli immigrati che arrivano, agli immigrati, diciamo, è una gran parola, agli immigrati. No, ma ho capito, dunque vuoi dire che Orban sbaglia a chiudere le frontiere? Certo. Sì, Orban per me sbaglia a non accoglierli già. Il fatto che lui neanche sia in grado di dargli un po' d'acqua e di dirgli dopo tutto quello che state vivendo, almeno ecco una bottiglia d'acqua, quello mi dà fastidio, quello non mi piace, mi fa schifo. Ti fa schifo. Bravo. Un po', ti fa schifo. Sì. Ma nel complesso, però, gli ungheresi lo amano. Lo amano perché secondo loro, senti, qui c'è, oramai c'è la muda nel mondo, ognuno pensa i cazzi propri, questa è la vita. Secondo me la vita non è questa, la vita bisogna essere generosi, perché prima o poi ti ritorna dietro. Quindi voglio dire, qualcuno che ha bisogno, che cazzo deve aiutarlo? Non è così, cioè non è che salvaguardi, tanto quanto durerà, un anno o due, poi gli buttano giù il muro e gli buttano giù pure il Parlamento, è inevitabile. Cioè prima o poi verrà travolto, dici, verrà travolto. Verrà travolto prima o poi, dici. Verrà travolto, a meno che non decidano di bloccare Assad, o ridandogli il potere che aveva una volta, anche se un gran bastardo, purtroppo è stato lui a creare tutto questo casino, e quindi lui si gestisce l'ISIS dentro casa e annulla tutto, chiude tutto perché lo lasciano perdere. Non è giustizia, ma purtroppo a volte bisogna pensare anche al contrario. Oppure sarà inevitabile. Le grandi analisi di Rocco Siffredi, però devo dire la verità, che ragazzi, ma anche Rocco Siffredi è in grado di fare grandi analisi, certo, geopolitiche. Tra l'altro voglio dire che il porno, il mondo del porno, è il mondo più multiculturale che ci possa essere, cioè, questa è la realtà. Mentre lì bloccano le frontiere, in Ungheria, Budapest, dentro l'Ungheria, girano in tutte le lingue. E lo faccio da parecchio. Amici miei, siamo al top. La Zanzara. No! collegamento da Budapest per la Zanzara, Rocco Siffredi. Abbiamo scoperto, caro Parenzo, che Rocco Siffredi è quasi più aperto sulla questione immigrati del nostro editore, ma questa è una piccola parentesi. Beh, sì, però che c'è. No, vabbè, dai, paragona... sì, è una battuta, dai, questa è una battuta. No, ma a parte che il nostro editore in verità ha detto due cose, tu ne hai citato soltanto la parte difensore, dai, ma che no, ha detto l'immigrazione di lungo periodo è positiva. Cita, fallo sentire tutto. No, io ho fatto sentire quella parte lì. Allora, voglio chiedere una cosa. L'immigrazione di lungo periodo è positiva. Rocco, si può dire una cosa? Si può dire che senza immigrati il porno in Ungheria sarebbe morto? Dunque, Orban non rompesse i coglioni, uno può dire, perché senza l'arrivo degli immigrati anche un lavoro che dà sicuramente un reddito all'Ungheria, perché comunque qualche soldo lo porterà pure alle casse dello Stato, le tasse le pagate voi, no? Ma come no? Come no? Ne paghiamo, devo dirti la verità, anche tanti qua in Ungheria, più dell'Italia. No, beh, più dell'Italia. Ma come più dell'Italia? Uno va via dall'Italia per andare... più dell'Italia. Ma no, ma io non sono andato via dall'Italia per non pagare le tasse. Sono sì, perché non si poteva fare. Perché qui c'è materia prima, in Italia preferiscono fare altro. Quindi, senti, ma senza gli immigrati come cavolo faresti tu là? Senza gli immigrati come faresti a girare, a fare? Niente. Guarda, io sono sempre una persona da quel lato molto molto tranquilla, cioè per me tutti i colori sono lo stesso, l'importante è la... Io sono razzista contro gli ignoranti e i deficienti, il resto è uguale. Cioè... No, vabbè, d'accordo, ma vuol dire il mondo del porno, anche in Ungheria, senza gli immigrati come fa a campare? Sarebbe possibile? Per me siamo tutti uguali. No, ma è d'accordo, ma questo è normale che uno lo dica, però senza l'immigrazione anche in Ungheria il mondo del porno... Io lo penso anche. Sì, no, ma ho capito, ma voglio dire, è una parte fondamentale nel mondo del porno, no, l'immigrazione. Pronto? Pronto? No, vabbè, è sparito, dai. Marco da Genova, vai Marco. Buonasera, Cruciani. Dimmi Marco, dimmi. Senti, io all'inizio mi è sfuggito, ho sentito chi è che denunciava la parola orango? No, sto dicendo, Calderoli è stato, come dire, non andrà a processo per istigazione all'odio razziale per aver dato dell'orango alla Chieng, mentre andrà a processo per... Sai cosa vuol dire orango in indonesiano? Ma non lo so. Orango indonesiano vuol dire uomo della foresta. Ma vabbè, orango, ma che c'entra? È uomo. Ma che c'entra? Ma non dico, cosa vuol dire? Cosa ci dimostra sta roba? Cosa vuol dire? La parola orang è uomo e tan è foresta, l'orango tan è il scimmione della... Vabbè, appunto. E quindi? E quindi non capivo il nesso della questione. Vabbè, ma lei non sa niente, per cui che cosa vuole capire il nesso? Antonio dalla provincia di Arezzo non lo sa, le ha dato dell'orango in senso dispregiativo. Ovviamente per me non doveva andare a processo Calderoli. Ma c'è doveva andare? Ma assolutamente non per, no, perché ma non ha fatto per una cosa. Razzismo. Ma quando? Ma sì, se doveva andare a processo doveva andare per razzismo, non per diffamazione. Dubbio. Io l'ho detto fin dal primo, però secondo me, minuto. Andare in tribunale perché chiami orango la Chieng è una cosa folle. E cosa ci va? Cosa deve dire uno per essere protetto? Tribunale, non ho capito, fatemi capire. Antonio, a chi deve essere paragonato? Salvatore da Milano. Salvatore, vai. Sì, senti, volevo dirti che ho notato che ci sono intasamenti intorno ai maggiori centri urbani. Lo so, quello sicuramente alle 20:03. Senti, da napoletano ti dico, la Rosy Bindi è una grande, non avrei mai pensato di dirlo nella mia vita. Chi è un grande? Non ho capito. La Rosy Bindi è una grande, c'ha ragione. Per la cosa che ha detto su Napoli? Ma assolutamente. Perché la camorra non è solo quella che ammazza, la camorra è anche quando fai una coda in posta e ti passa l'arrogante davanti, ti butta il sacchetto dal terzo piano, cioè è questo è che non funziona giù. Siamo gentaglia, e te lo dico da napoletano. Cioè tu dici napoletano a Milano, siamo gentaglia. Noi siamo gentaglia, perché con la città che ci abbiamo, capito, con la città che ci abbiamo... Siamo ancora in balla sulla stessa storia, offende. Lo dice lei, gentaglia. Ma io, cioè, ma basta, cioè veramente, c'ha ragione la Bibi. Cioè che la Bindi non ha detto che diciamo che i napoletani hanno nel DNA la camorra, ha detto che è un dato costitutivo di Napoli la camorra. Sì, ma basta con sta permalosaggine, veramente, che palle, veramente, c'ha ragione, siamo gentaglia, abbiamo una città che è un gioiello, ok, sono andato a Copenaghen a vedere sta cazzo di sirenetta, pagato 15 euro per vedere una statua sullo sfoglio con tutto quello che ci abbiamo giù, ragazzi, c'ha ragione la Bindi, veramente. Grazie, Mauro Cagliari. Pronto? Dimmi, Mauro, dimmi. No, volevo solamente dire che non sono d'accordo assolutamente sull'affermazione che avete fatto riguardo al fatto che uno che non vuole dire un fatto che ha commesso vuol dire che è disposto a rifarlo. Cioè, è una stronzata. No, disposto a rifarlo, è un'altra cosa, Mauro, non disposto a rifarlo. Uno che mente, diciamo, che mente sul proprio passato, lo diceva Esposito, cioè uno che dice no, ma io non ho mai detto nulla, ero un tifoso moderato, eccetera, eccetera, non è, è sicuro che può mentire anche sul presente. Questo voleva dire Esposito, non che rifarebbe le stesse cose adesso. No, io ho capito che qualcuno che non vuole raccontare quello che ha fatto in passato sarebbe disposto a ricommettere quello che ha fatto. No, non è così. Vabbè, allora, Andrea da Roma, dai Andrea, vai. Eccomi. Dimmi. Volevo spiegare a Parenzo che secondo la teoria economica marxista l'immigrazione abbassa i diritti dei lavoratori e abbassa il salario dei lavoratori molto velocemente. Secondo la teoria economica marxista, il livello salariale dei lavoratori è il livello minimo al quale il lavoratore non si ribella e rompe la testa al suo datore di lavoro. Ma si cosa c'è? Cioè, lui sta dicendo una cosa: più immigrazione c'è, più c'è disponibilità di manodopera a basso costo. In termini economici si dice che il livello salariale è quello di sussistenza, e cioè il minimo al quale non viene causata. Cioè, tu vuoi dire, però Andrea, andiamo al sodo, perché noi possiamo fare teorie economiche qui. No, tu stai dicendo più immigrazione c'è, meno diritti ci sono e più si abbassano gli stipendi. No, è un po' diverso. Più immigrazione c'è, più entra gente disposta a fare lavori senza arrivare allo scontro sociale. Questo fa sì, non lo dico io, io sono un liberista. No, ma quello poi, ma io infatti sono contento. Lo spiego in parte, sono anche contento. Lui dice, cioè, se fai entrare massa di lavoratori disposti a non ribellarsi al proprio datore di lavoro in condizioni sì, ho capito perfettamente. Di lavoro inferiori a quelle degli italiani, vuol dire che... Ma ci sono le leggi per questo, scusi, ma cosa c'entra? No, non è la legge. Questo ma io è il punto. Lui sta parlando in termini generali. Ho capito, ma generale che vuol dire? Sto provando a spiegare a Parenzo che se uno è di sinistra dovrebbe anche studiare i libri di sinistra, perché è facile fare quello di sinistra senza questo studiare. Cosa c'entra, scusi, va bene, fammi sentire Claudio. Ho capito perfettamente Andrea. Claudio da Lucca, dai Claudio. Eccomi. Dimmi Luciani, senti, io ormai ti sto filando da lungo tempo, stai dicendo che non c'è un gay e non lo vuoi dichiarare, invece lo dovresti dichiarare, e poi c'è un'altra cosa che mi devi spiegare. Ma da chi ti rifornisci te prima di andare in trasmissione? Da chi che mi rifornisco? Cosa fai? Di nulla. No, me lo dicono in tanti. Non servono niente, davvero, veramente. Sei sempre fuori delle righe, sei sempre fuori eccitato, sei sempre sulla luna, urli, poi un pazzo, mandi in culo la gente. Ma te ti fai di coca e non lo dici. Oppure ti fai di LSD, oppure ti fai di qualche cos'altro. Ma perché non lo dici? Ma perché non è vero, semplicemente. Ma no, di la verità, ti ho semplicemente visto, non dai, è vero, ma mi hai visto che quest'estate ti ho visto, sai, in Versilia lì, che andavi alla festa della tua amica lì alla come si chiama, non mi ricordo più, quella di Forza Italia, al suo compleanno, poi sicuramente tutti al locale del vostro grande amico lì al Twig, eccetera eccetera. E allora figurati te quante piste vi siete fatti tra tutti quanti. Ma lo sai che sembra sei, lei che ha la voce, ma lo sai che sei veramente un poveraccio, e credo che tu invece prima di intervenire qui ti sei fatto qualcosa. Dillo, lo sai che secondo me quello che ti gay, come mai non vuoi dire quello che si è fatto, per carità, quello che si è fatto di qualcosa sei tu, prima di intervenire qua. Faccio delle risate quando ti sento. No, tu ti fai di qualcos'altro, te lo dico io, ti fai di qualcos'altro. Questa tua follia di dire per tenere su la trasmissione, sei capace di dire tutto, che fai, che urli, che dici, gli immigrati, gay, questo, quello. Lascialo parlare, lascialo. No, no, vai, hai finito? No, no, ti dico il mio pensiero, te l'ho detto. Pensiero, no? Quindi, non esagerare. Non esagerare. Non esagerare, dai, non esagerare. Quindi, su. Se vieni alle feste della Santa anche, cosa vuoi fare con lei? Se non andate non a mi sembra, non mi sembra un reato, e stai dicendo una cosa che è una. E stai dicendo anche una cosa che è passibile. Cioè, io sono andato alla festa di compleanno, non ricordo che festa era, no, nemmeno di compleanno, dove c'erano un sacco di invitati, pure gente del PD, non solo gente di Forza Italia. E in cui nessuno si è fatto, almeno che io abbia visto, nessuno si è fatto pista di cocaina, per cui stai dicendo una minchiata pazzesca. Se vuoi dilla pure, ripetila pure, ma l'unico che mi sembra che si sia fatto di qualcosa, sia fatto di qualcosa, questo si chiama Claudio da Lucca, con questa voce un po' impastata, direi, no? Dove andiamo? Valerio, provincia di Barletta, dai. Buonasera signor Cruciani. Dimmi, dimmi. Signor Farenzo, allora innanzitutto complimenti, io ti seguo da quando stavi a Controcampo. Vabbè, dai, Valerio, forza, vai, vai, non i complimenti non me ne frega niente. No, no, allora, a parte il fatto che non ho capito ancora, Parenzo, che tipo di giornalista, mi sembra un fenomeno a baraccone. Ragazzi, però io voglio dire una cosa, io c'ho un ragazzino qua che va ascolta insieme a me, sinceramente mi ha chiesto che cos'è l'eroina, ma va la fidanzata, parlava di queste robe. Che cos'è? L'eroina, che cos'è l'eroina? Così, e rispetto a quello che prima ho detto. Ho capito, ma mica l'ho detto io, non è che l'ho detto io. Ho capito, però far intervenire gente che è strafatta come questo di Lucca. Io al posto vostro, quando sentite gente che parla di queste cose, chiudere direttamente il contatto. No, ma scusa, chiederemo cosa, se, secondo questo criterio noi dovremmo chiudere praticamente agli ascoltatori, perché quando uno interviene non ti parlo degli ascoltatori, informazione libera, io pure per certi versi ho fatto giornalista. Scusa, so. Valerio, è intervenuto uno che ha detto una cosa, sono agli arresti domiciliari, abbiamo cercato di capire perché gli arresti domiciliari, ha cominciato a parlare dell'eroina, allora, a un certo punto volevamo capire perché parlava di eroina, dice di essere stato prima, sono un consumatore, poi sono stato un consumatore, poi gli ho chiesto per te che cos'è, per te che cos'è l'eroina, incazzato, e quello capisci, cioè già a dire, fare inconsciamente anche un tipo di pubblicità nei confronti di un prodotto che poi voi abbiate detto no assolutamente non la dovete usare, non vi fate è come Cruciani, è come la pubblicità che passa alla TV, il gioco che fa male, cioè, però al tanto ti bombardano queste pubblicità, è la stessa cosa. Ma non, dire, male, ma non è cosa. Così, ma non è così, dai, nessuno ha fatto l'elogio dell'eroina, figuriamoci se noi facciamo l'elogio dell'eroina, dai, su, amico mio, dai. Fermo lì, pubblicità. I love you, I like a bird. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento La Zanzara. You've done all your running, run to me. I know you love your loving, and when you're done with all your loving. Allora, eravamo con Massimo da Roma, o sbaglio? Massimo? Sì, eccomi. Allora? Che stavi dicendo? Quante parolacce vedevo dire? Dai, che mi diverto, dai. Quante parolacce vedevo dire, dai. Allora, dimmi, dai, Massimo, dimmi. Allora, prima cosa, come cazzo vado a far intervenire gente così che manco me ne accorgete come sta, perché fa pubblicità a queste cose che io proprio né in cielo né in terra. Perché, ma chi sarebbe? Quello che dice che era un consumatore di eroina? Già, che poi manco lo sapeva lui che cazzo era, perché, cioè, voglio dire, alla fine, no, tu hai capito che era? No, Massimo, non ho capito, vuol dire, non è che se uno ha detto sono un consumatore, poi ha detto no, ero prima un consumatore, poi dice che gli hanno dato una bustina, vabbè, comunque insomma si faceva di eroina. Apposta, dico, non sapeva manco lui che era, quindi voglio dire. Allora? Però il discorso è questo, vogliamo andare sul tema di Casa Monica, così, di punto in bianco. Ma che ci frega a noi del fatto dell'elicottero, del fatto del coso? Vabbè, Massimo, però perché vuoi parlare adesso di questa roba, niente, che è una roba vecchia? Scusami, abbi pazienza. Che di cosa vuoi parlare? Di tutto, quello che vuoi parlare a voi. Ma come quello che ci avevi telefonato per un motivo, no? Ma questo è spostato forte. Di quello che pare a noi, ma scusa, sei intervenuto tu, non è che siamo che noi. Che pensa di questa vicenda del Senato? Allora, vediamo, dai, avanti, forza, su. Cosa pensi? Del Senato, vabbè, no, lasciamo perdere. Perché no, vabbè, una vergogna. No, cos'è una vergogna? Dire. Cos'è una vergogna? Tutto, cos'è? Tutto. Una vergogna. Tutto, tutto una vergogna. Cos'è una vergogna? Tutto è una vergogna. No, lei sa cosa è successo, no? Al Senato. No, aspetta, no. No, intanto è una vergogna, ma è una vergogna, insomma, andavanti così. Comunque una vergogna. No, aspetta. No, ma nel merito, cos'è che è successo al Senato? Capisco che non è di nessun interesse. Non me ne frega niente che è successo nel merito. Però è una vergogna. Io parlo per me. Io sono un disoccupato, giusto? Sì, è un disoccupato. Ok, mi spiace. Per carità, no, ma ho fatto anche tante cose, non è che sono solo disoccupato, allora? Perché voglio essere disoccupato, ecco quello che dico io è. Allora, questi fanno, vengono qui, mangiano, bevono, questi chi intanto? Questi chi? Ah, gli immigrati. Gli immigrati, sì. Poi certo, è che ci vengo io ci sto... Però il discorso è questo. Allora, vengono, fanno, bevono, mangiano. Ma qui sta bene niente, perché sa che adesso gli mettiamo anche le prostitute lì, no, giusto? Ma che c'entra? Dove mettiamo le prostitute? Ah, diamo le persone. Mangiano e bevono, che fanno? Non trummano. Scusa, eh. Vabbè, Massimo, no. Buona serata, ciao. I'm a real wild one. Allora, in collegamento da Bruxelles, Cécile Kienge, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Vai, insomma. Posso dire Orango? Io posso dire, ormai si può dire tranquillamente. Siamo signora Orango. Che vergogna. Scusi, già Kienge. Adesso ormai è stato sdoganato. È stato sdoganato. E questa è la tristezza. Perché esatto. A mio avviso, insomma, quelle parole. Cioè. Era razzismo. E cos'è? Razzismo. Cioè, è razzismo. Bisogna chiamarle proprio così. Allora, io dico una cosa. Avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome. Riassumiamo quello che è successo. Il signor Calderoli, qualche mese fa. L'orango Calderoli, si può dire a questo punto. Diede dell'orango. No, che c'entra l'orango Calderoli? Beh, se non è più un insulto. Ma no, l'insulto era rivolto a Cianchi Enghe, che è di colore, non a Calderoli. Se lo dici. È una vergogna, dai. Allora. Sì, no, nel suo discorso era molto chiaro, perché si riferiva alle mie sembianze, al colore della mia pelle. Razzismo, cioè, pure, dai. Esatto, se non è razzismo questo, allora io. Allora, la frase esatta era questa: ogni tanto smanettando con internet. È come dire a un ebreo naso adunco, aspetta, no? Quell'odioso stereotipo è uguale. Mi dai, fai ripetere la frase: ogni tanto smanettando con internet, apro il sito del governo e quando vedo venire fuori la Kienge, io resto secco. Io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo, ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però quando vedo uscire dalle sembianze di un orango, io resto ancora sconvolto. Ridendo naturalmente, con risate intorno. Allora, credo che la Kienge lo abbia portato, anzi non è stata lei direttamente, no, a portarlo in tribunale, cioè... No, io no, cioè, parte proprio d'ufficio, è un reato previsto dalla legge Mancino che parte d'ufficio. Però ci vuole l'autorizzazione da parte del Senato. L'autorizzazione è stata concessa solo in parte, è stata concessa per diffamazione, credo, ma non con l'aggravante dell'odio razziale. E il che però è una contraddizione. Anch'io, che sono contrario comunque al fatto di portare in tribunale Calderoli per questo, devo riconoscere che se vuoi portare in tribunale Calderoli lo devi fare proprio per odio razziale, altrimenti che diffamazione è? Cioè, che diffamazione è dire uno orango? Sì. Ma scusa, è una follia, no? Cioè, a questo punto il processo si può dire che è inutile, Kienge? Ma qui non hanno dato l'autorizzazione a procedere, però per me non è tutto, cioè non chiudo questa causa perché non la vuole chiudere? Io fossi lei la ritirerei a questo punto. Ma non sono io che ho fatto, cioè la battaglia è un'altra cosa, io porto questa battaglia, le faccio proprio un ragionamento che va al di là della mia persona. Noi fra un paio di anni avremo in Italia una generazione di giovani che in questo momento stanno crescendo all'interno della scuola, crescono anche con l'idea siamo tutti uguali, insomma. Vabbè, delle diversità. Allora, fra un paio di anni, quando poi uscirà fuori il problema di come gestire il conflitto, anche... Vabbè, questo però che c'entra? È che oggi dobbiamo essere fermi. Che abbiamo dato il Senato ha dato un cattivo esempio, lei vuole dire. Esatto, è oggi che noi dobbiamo intervenire, non quando per esempio dobbiamo agire in emergenza. Oggi noi dovremo in qualche modo cominciare a proteggere quello che sarà il futuro delle... Ho capito, però lo dica a quelli del suo partito, però, non vuole Kienge. Sono loro che hanno impedito... Io porto questa la responsabilità di ogni senatore, chiunque abbia votato. D'accordo, però se il PD era su questa cosa qui era deciso, Calderoli andava a processo per odio razziale. La gente del PD, alcuni del PD hanno votato contro questa roba qui. Lei non è amareggiata, non è incazzata per questo? Sono molto amareggiato. Col PD. Devo dire io. Sì. Io non aggiungo col PD, con chiunque. Vabbè, però perché col è la responsabilità PD particolare... politica di tutti. Io al mio partito chiedo di riflettere sul giorno dopo. Ai senatori se hanno pensato al significato di questo voto. Vabbè, ma hanno pensato alla legge elettorale, no, alla, no, alla, ma scusi, c'è stato uno scambio o no? Preferisco non fare associazioni, mi tiro fuori da questi giochi perché... Però è un caso, non è un caso, che Calderò, non è un caso, che Calderoli oggi ha ritirato tutti gli emendamenti. È stato in parte buon per lui, ma per me la dignità di una persona è sopra qualunque cosa. Ecco perché io oggi, nonostante insomma questa notizia mi abbia toccata, sono un po' amareggiata, però io ho dimostrato di essere una signora, perché? Di essere più forte di tutti, perché non abbasso la testa. Non è questa che mi fermerà e farà capire che noi abbiamo bisogno di un altro insegnamento. Però comunque si può dire che ci guardano. Oggi si può dire tranquillamente Orango alla Chieng, anche in modo, nel modo in cui ha detto Calderoli, senza andare a processo per odio razziale. Questo è possibile, eh? Cioè, è possibile. Ma guarda, io lo trovo comunque in signora questo Orango, momento che è la politica è irresponsabile, che non c'è un confine all'uso irresponsabile. Ho capito, ma è irresponsabile anche il PD, allora lo dica chiaramente. Cioè, gli esponenti del suo partito sono stati irresponsabili. Quelli che hanno votato, io ritengo che comunque in qualche modo debbono dare una risposta alle persone. È politichese, quindi. Questo però è politichese. No, è un po' politichese. Dai, il suo partito, in realtà al suo partito gli interessavano altre cose, altrimenti avrebbe tranquillamente fatto passare questa cosa. Siccome doveva chiunque faccia questo ragionamento, ma io preferisco mantenere nobile questa lotta, questa causa. Vabbè, ma non è che dicendole la verità uno non la mantiene nobile, bisogna però anche dire la verità, cioè che quelli del PD se ne sono fottuti del principio del razzismo. Probabilmente forse non hanno capito fino in fondo il messaggio, perché per me quando dico non è una questione personale tra me e Calderoli, perché vorrei che nella sede deputata, cioè il tribunale dove doveva andare Calderoli, si stabilisca se c'è un confine tra un dibattito pubblico responsabile e l'uso irresponsabile di parole. Però che lasciano un segno nella società. Lo sa che Calderoli si è sposato? Guarda, non mi interessa proprio della vita privata di Calderoli. Gli faccia gli auguri per il matrimonio. Le faccio pure gli auguri, però la sua vita privata non mi interessa. Cioè io si è sposato con una gentile signora piemontese. Tanti auguri. Tanti auguri a Calderoli. Tanti auguri a Calderoli. Beh, c'è una doppia faccia di Calderoli. Calderoli che ha dato l'orango alla Chieng, e poi questo matrimonio bellissimo, in forma anche privata, senza politici, eccetera, con la signora Gancia. C'è la doppia faccia di Calderoli. Ma secondo lei Calderoli si è pentito di questa cosa? Non le ha mai fatto una telefonata, signor Calderoli? Ma guarda, Calderoli, io ho sempre separato le due cose, la parte umana e personale, con la parte che riguarda il ruolo delle istituzioni. No, ma dico, Calderoli... Ho sempre tenuto separato questo. Sì, ma ha chiamato o no? Ha ricevuto una telefonata da Calderoli o no? Di scuse, private. Scuse, anche. Sì, in passato, sì. In passato, sì. Esatto, e avevo anche precisato testuali però, parole. Scusami. Una questione... umanamente lo perdono, però non dipende da me, perché è un reato che parte d'ufficio. Ma è sconcertante, sconcertante una cosa. Lo stereotipo della persona di colore associata alla scimmia è una cosa che facevano i nazisti e i fascisti nello stereotipo generale. Vabbè, ragazzi, attribuisci troppa importanza a queste parole. Il razzismo si fonda su questo, e questa è la cosa vergognosa di quello che è accaduto. Ma poi anche il messaggio che diamo fuori, ma questo lo divido. Lo dovete dire io al partito. Fossi della Chiesa, sarei incazzato, non ma lo dovete dire al Partito Democratico, lo dovete dire al PD, perché con i voti del PD, con i voti del PD andava a processo per discriminazione odio razziale. Ma secondo me si dovrebbe arrabbiare ogni cittadino, ogni cittadina dovrebbe. Perché questa guardate che non è una questione personale, cioè io ne ho passate tante, perché non credo che questa sia semplice diffamazione. Gli ha mandato un messaggino a Renzi, gliel'ha mandato un messaggio, un tweet a Renzi. Ma guarda, io non oggi sono stata molto impegnata. Ma che gli frega Renzi? Arrivederci, buona serata, arrivederci, grazie. Grazie. Saluti. Mille. Arrivederci. Grazie. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Yeah, Allora ragazzi, voglio adesso vedere le anime belle di casa nostra, cioè quelli che criticano. Tra l'altro si sta preparando pure un disegno di legge sulle, non solo sulle intercettazioni, ma anche sulle telefonate cosiddette rubate, no? Sì, sì, ho visto. Voglio vedere le anime belle di casa nostra, cosa diranno. Di casa Monica? No, di casa nostra, ah, scusa, non di casa Monica, di fronte al meraviglioso scherzo ordito da due bello, russi. Bello, i russi, giornalisti russi. Contro Elton John, contro Elton John. In però Russia, quando non è ancora andato in onda, mi pare, andrà in onda oggi, stasera, no? Oggi, sì. Allora, in Russia li conoscono come Vovan e Lexus. Sono due comici. Sono cruciale parezza praticamente. Praticamente sì, hanno messo in gravissimo imbarazzo Elton John. Che no, chi dovrebbe essere imbarazzo sarebbe, dovrebbe essere Putin invece. Beh no, Putin si sta divertendo come un matto, che sicuro, scherzi. D'accordo. E allora però... che imbarazzo hanno messo Putin? No, nessuno dovrebbe essere contrario. Imbarazzo per quel che pensa. Senti, Putin, se questi qua avessero comunque, messo, dai, se racconta. Questi qua avessero messo in imbarazzo Putin, secondo te esisterebbero ancora nella, nella televisione? No, non c'è dubbio. Non so che televisione no, è io russa. Dico che allora, Putin dovrebbe, non c'è dubbio. Quindi allora, dimostri che Putin è un regime di semilibertà quello lì. Ma Putin dovrebbe essere in imbarazzo per quel che dice sull'omosessualità. Ma quello è un discorso vecchio. Chi se ne frega sempre. Comunque Elton John aveva annunciato di aver ricevuto la chiamata del presidente russo Putin, no? Di essere prossimo a incontrarlo, eccetera eccetera. Questi qua hanno detto siamo stati noi, e gli è venuta l'idea quando praticamente Elton John a Kiev ha sostenuto che voleva incontrare Putin per demolire le sue ridicole posizioni sugli omosessuali. Questo aveva annunciato il signor Elton John. Questi geni che cosa hanno fatto? Abbiamo pensato, è altamente improbabile, almeno nel prossimo futuro, che Putin voglia incontrarlo e che gli telefoni per invitarlo. Ma Elton John sta aspettando quella telefonata, quindi crederà immediatamente alla realtà della conversazione che noi abbiamo interpretato. Uno dei due parla perfettamente inglese, si è presentato come il portavoce del Cremlino e l'altro ha fatto Putin. Elton John, tra l'altro, hanno fatto una zanzarata. Non si è limitato ad annunciare che incontrerà Putin, eccetera, eccetera. Ma la cosa è ancora più grave perché la registrazione dura 11 minuti e Elton John ha concluso questa registrazione, lui, fiero oppositore di Putin, eccetera, eccetera, in questo modo. Grazie. Rivolto al finto Putin, avete reso felice la mia giornata. Questo giorno con questa conversazione è stato il più bello e meraviglioso della mia vita. Che genio, adesso che vogliamo fare? Vogliamo metterli in galera? No, dai, i russi è difficile, diciamo. Vogliamo metterli in galera questi qua? Vogliamo metterli in galera? Dove sono i russi? Dove sono i Barca? Dove sono i Soro? La privacy, quelli che vogliono la legge per non fare più per non far fare più gli scherzi, dove sono? Dove sono questi qua? Non protestano, non dicono non vogliamo nemmeno ascoltare, non dicono un cazzo, non dicono nulla, muti. Adesso perché si tratta di Putin e Elton John. Dai, su. Tutti ad esaltare questa cosa in prima pagina, dappertutto, Che ipocrisia, guarda, che schifosa ipocrisia. Vabbè, fammi sentire qualche ascoltatore, dai. Dove andiamo? Andrea da Vicenza. Andrea, dimmi. Eccolo qua. Dimmi, dai, alza la voce, dai. Sì, allora, io sul riguardo la Tieng, no? Per carità. Occhio che arriva il razzista, occhio. Non c'entra niente. Occhio al razzista che arriva. Che arriva. Ma perché deve essere razzista? Scusami. E chiudi sto telefonino, dai, su. Non ho ancora detto niente. Dai, Andrea, dimmi. No, voglio solo dire che la Tieng, banalmente, per me, politicamente, non vale niente. Nel senso, io l'ho seguita un po' in qualche dibattito televisivo, lì cosa fanno in televisione, Ballarò, i programmi lì. Invitano la Tieng e Salvini per creare un po' di audience, fare un po' di scompiglio, no? Però se si ascolta bene quello che dice la Tieng, cioè l'unico argomento che ha, diciamo, come il suo cavallo di battaglia è quello del razzismo, del fatto che lei ha ragione Andrea, non andare avanti, poi Andrea sta dicendo una cosa molto semplice, non andare avanti, cioè le cose che dice la Tieng francamente sono abbastanza banali, dai, su, cioè, diciamo la verità, ma sì, dai, politicamente è quello che è, cioè, ma io l'ho sempre detto questo, cosa vuol dire banale, cosa c'è di banale, ma si dice delle cose, è quello che vuole dire Andrea, che non gliene frega niente del colore della pelle della Tieng, giusto Andrea? No, non frega proprio niente, no, nel senso che voglio dire, la senti, per lei qualsiasi cosa cosa si dica in qualsiasi dibattito, su qualsiasi argomento, lei ci mette sempre il razzismo. Cioè, secondo me lei ci ma marca. Sempre. Lei a questo punto, cosa cioè... vuol dire sempre il razzismo? No, vuol dire, qui parliamo vuol dire di casi specifici, non razzismo in generale. Cosa vuol dire razzismo in generale? Vuol dire che lei è lì, che ha avuto questa posizione, non so come, non so la sua carriera politica, però... Mi sembra così. Ma intanto è stata votata al Parlamento europeo, è stata votata tanto vabbè, quanto che c'è non ha chiesto come è arrivato lì come funziona in politica quando va bene Andrea il... grazie Giorgio da Brescia Giorgio vai dimmi. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora io volevo intervenire perché tu 3 giorni fa hai fatto un'affermazione che ognuno giustamente una parte posso capire, parlo dell'Ungheria in questo caso, sì. può accettare, non accettare gli immigrati, ma visto quello che sta succedendo in questi giorni, sì. Sei sempre dello stesso parere? L'Ungheria fa benissimo a fare quello che il suo governo vuole fare. E infatti arrivano le sanzioni dal Parlamento d'Europa. Benissimo. E infatti arrivano le sanzioni. Ma che sanzioni? Ma quali sanzioni? Vedrai, arrivano le sanzioni della L'Ungheria fa benissimo. E infatti arrivano le sanzioni. Benissimo. Ma chi sa? Allora, vorrei ricordarti che 200. Pronto? Dimmi. Vorrei ricordarti che 250.000 ungheresi nel 56-60 sono immigrati tutti per questioni economiche. Sono cose diverse. Come sono cose diverse? E cosa ne dici buttare il pane veramente agli animali? Veramente se ne andavano per altri motivi gli ungheresi nel 56. Erano sotto pressione, erano pressi, ho capito. Anche per motivi economici, ma soprattutto per altri motivi. Grazie Giorgio, grazie. Lo sai chi c'è con noi, Parenzo, adesso? No, chi c'è? Beh, una ragazza che è molto bella, una ragazza bene. Di colore. Che non la vediamo perché è la radio. È la radio, non la possiamo vedere. Esatto. Ma è in corsa per Miss Italia e porta un cognome particolare. Il cognome è Mangano. Buonasera, come stai? Buonasera, benissimo, voi? Bene, sei in viva voce però mi sembra, hai il telefono in viva voce o sbaglio? No, non sono in viva voce, però sono in uno spazio che rimbomba. Ma stai facendo... Vai un po' troppo. Mi sposto, mi sentite bene adesso? È uguale. Sì, dov'è, in una stalla? No. Chiedo scusa per la battuta idiota, chiedo scusa. No, allora aspettate che mi sposto ancora. Spostati perché... ancora. La stalla ancora. Era per il riferimento allo zio. Diciamo. Ma lo sa, l'ha capito, mica è cretino. Sì, lo dicevo al pubblico, non a lei, al grande pubblico, a quei somari che ascoltano. Hai una bellissima voce. Voglio dirti una cosa, quanti anni hai? Io 24. 24 anni. Beh. Ti chiami sì. Osaremen, fammi pronunciare allora, bene sto nome. Allora, si dice Osariemen. E che vuol dire? Ma si dice in italiano sarime, vuol dire voluta da Dio. Bellissimo. Voluta da Dio. Devi sapere, sì. Cara, che il signor Cruciani è in genere contrario ai migranti. In questo caso, invece, mi pare sia molto favorevole. Ma lei non è migrante. Ma io non sono migrante. Non lo so, lei è italiana. La sua adorata mammina. Ha specificato, non è migrante. Grazie all'immigrazione, abbiamo anche queste figure qui in Italia che ora concorrono per Miss Italia. Hai capito? Questo volevo esattamente, dire. Dipendesse da Salvini, l'ottima Osiramen, anzi, la madre dell'ottima Osiramen. A me non sarebbe venuto in Italia se fosse passato. Allora, perché specifichiamo, il padre è siciliano, tuo papà, vero? Mio papà è di Vigevano, ma le nostre origini sono siciliane. Ah, papà di Vigevano, beh sì, sono, certo. Sono di Palermo. Di Palermo. Beh, non a caso ti chiami come Mangano. Come dicono i siciliani. Sì. E invece la madre è nigeriana. Come si sono conosciuti i tuoi? Allora, mio papà è andato in Nigeria per un per lavoro. Certo. E niente, si sono conosciuti in una discoteca della Nigeria. Un classico, direi, un classico, no? Classico, amore a prima vista. Andiamo subito al punto, al di là di Miss Italia, quello che succederà. Ma questo cognome ti pesa un po', no? Cioè, sai chi era tuo zio Vittorio Mangano, prozio chi era? Allora, mi è sempre stato detto in famiglia che era un parente. Un parente, e... sì. Sì, un parente, non so di quante generazioni ci sono i cugini dei cugini, tipo il prozio dello zio, una cosa del genere. Non l'hai mai conosciuto. Comunque, naturalmente. No, no, non l'ho mai conosciuto, ma mi piacerebbe conoscerlo. Ma è morto, però. È morto. No, mi piacerebbe conoscerlo, nel senso che mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Ah, ecco, ma sì, questo è più corretto. Comunque ero piccola, quindi. Eri piccola, per cui tutte queste storie non le sai tu. Cioè, no, non le so. No, allora. Cioè, so non che sai che era lo stalliere. Esattamente, sapevo che era lo stalliere di Berlusconi, ma sì, oltre a quello non so cosa ha fatto sotto, quindi io non c'entro niente. No, vabbè, ma tu non c'entri niente, che c'entra. Le colpe degli zii e dei prozii non ricadono sui nipoti di terzo grado. Però c'è una cosa, vorrei capire, era mafioso il tuo parente, un tuo lontano parente? Cioè, questo è un dato di fatto, lo sai questo o no? Fatto, certo. Lo sai? Lo so. Ma che te frega a te tanto? Non mi interessa niente. Ma c'hai 24. L'importante è il cognome. Come l'importante è il cognome? Cioè, sei orgogliosa del tuo cognome comunque? Sì, assolutamente. Sono contentissima delle mie origini siciliane anche. E anche di avere il cognome Mangano. Mangano è importante. E tu conosci un signore che si chiama Dell'Utri, Marcello Dell'Utri? No, non so chi è Dell'Utri. Non sai chi è? Vabbè, è in galera per mafia, vabbè. Quindi tutto di mafia. Tutta roba mafiosa, guarda il nome. Mi state rovinando dicendo No, per carità, assolutamente. No, anzi, spero. Abbiamo parlato con alcuni amici. Il concorso lo vincerà Mangano. No, vabbè, adesso. Parenzo, ci pensiamo noi della zanzara. Non pensi che questa vicenda qua di Mangano ti possa in qualche modo danneggiare o no? No, assolutamente. No. Per carità. Tu, per esempio, oggi in Italia chi ti piace? Il signor Salvini ti piace? Cambiamo domanda. Cioè, ti fa orrore uno come Salvini, sì, diciamola tutta. Non parliamo di Salvini, veramente. Perché è veramente una brutta persona, può dire queste cose qua. Ma perché è una brutta persona, secondo te? Perché è contro l'immigrazione, come dite voi. Se comunque mia mamma non fosse venuta qui. Vedi? In Italia io non ci sarei stata, quindi non sono cose da dire, sinceramente. Certe cose se le può tenere per lui. Se le può tenere. Non lo voteresti mai uno come Salvini? Non mi pare. Ma direi proprio di no. Se fosse a capo dell'Italia sarebbe un disastro assoluto, cioè, o no? Io sarei la prima a essere spedita fuori, mi sa. Mi caccerebbe subito via. Subito. Va bene, abbracci, saluti, grazie, baci, signora abbraccio, Mangano. Okay. Professoressa Mangano. Il numero 21, il 26 Mangano, settembre. Mangano. Dio di noi che ci arrestano. Fermi che ci arrestano. Per concorso esterno. Mangano la signorina, La signorina, sì, Arrivederci. Ti rendi conto, la nipote di Mangano, dello stalliere del Berlusca, in concorso a Miss Italia, come piccolo il mondo, le cose tornano sempre. Dove andiamo? Luigi, provincia di Fermo, dai. Luigi? Vincenzo da Salerno. Pronto? Dimmi. Pronto? Buonasera. No, volevo intervenire sulla questione dell'ex ministro Kyenge. Al di là di valutazioni politiche, secondo me la decisione del Senato è ineccepibile da un punto di vista giuridico. Cioè, sicuramente quelle parole di Calderoli integrano una forma di diffamazione, perché... Sì, però Vincenzo, questa non è, come dire, non è la Cassazione, non è il quarto grado, il quinto grado, non è forum, diciamo. Allora, la questione ho capito, però, ma adesso lei ci sta facendo. La norma nasce anche dalla politica e da valutazioni. Sì, Vincenzo, se uno deve andare a finire in tribunale perché ha dato dell'orango alla Kyenge, non è che ci va perché semplicemente ha dato dell'orango come una semplice forma di diffamazione. Infatti, secondo me, per quella roba lì, però, probabilmente Calderoli verrà assolto, ma perché c'è l'aggravante o comunque c'è il razzismo, secondo me non deve finire in tribunale, però se deve finire in tribunale ci deve finire per quella roba lì, perché altrimenti non ha senso. Che diffamazione è dare dell'orango a qualcuno se non c'è il razzismo? Scusa, il razzismo non è punito e diventa odio razziale. Sì, cioè, ma ho capito, ma non c'è nemmeno questo, cioè non è stata concessa questa roba qua. Assolutamente corretto. È corretto, dice lei. Perché io sicuramente c'è disprezzo razziale, ma da lì all'odio, da lì a istigare forme di violenza. No, ma non è quello, non è solo quello. Vabbè, Luigi, provincia di Fermo, dai, c'è o non c'è Luigi? Mi sembra incredibile. Luigi, dai. Sì, pronto. Dimmi. Salve, buonasera. Senti, io volevo sottolineare, intervenire sulla telefonata, anzi su due telefonate. La prima di quel ragazzo, signore, non so, che parlava dei suoi problemi legati all'eroina. Okay. Dimmi. E poi la seconda era... No, ma dimmi questa cosa qua, che non abbiamo tempo, sull'eroina, la cocaina, dimmi. Infatti, vado veloce. E la seconda è quella che non è su quella che voglio intervenire, il fatto che il secondo ascoltatore diceva che ma voi dite, fate passare queste telefonate qua perché... Sì. Ma ecco, allora il fatto è questo. Noi facciamo passare telefonate di tutti i tipi, poi quando si parla di problemi sociali oppure legati alle eroina delle droghe, siano tabù perché c'è un ragazzino all'ascolto. Io ti posso garantire che ho 50 anni, due figli, uno di 16, uno di 18 e uno di 12, tutti e due ottimi voti a allora? Scuola, ho fatto il mio percorso. Allora Luigi, vai al sodo, su, che vuoi dire? Ho fatto il mio percorso in comunità all'età di 26 anni e oggi eccomi qua completamente inserito e con tutti i requisiti sociali e non capisco perché lui dice non si può parlare di questi problemi. Vabbè, ma infatti è una cazzata, noi parliamo di quello che vogliamo. Se quello là ha detto che si faceva di cocaina o di eroina e ha detto anche che se pensava all'epoca o pensa ancora che l'eroina sia la cosa più bella del mondo, lo dice, è una cazzata, lo dice, punto e basta. Cioè, censurare non ha senso. Vabbè, con questa orrida musichetta finale chiudiamo la puntata di oggi. A domani 18:30, ciao. E che cos'è? È che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Saluti da Roma e quindi saluti romani. Radio 24. La passione si sente.